Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, i bookmakers Nai continuano a puntare sul Milan, anche se la quota scudetto è salita da 1,82 dopo il pareggio di Firenze. La Juventus però è scesa a 3 alla vigilia di queste due trasferte consecutive che possono insomma lanciarla definitivamente in orbita. Sto parlando di sabato a Roma con la Lazio e del martedì successivo a Napoli. A proposito di sfide e di Napoli, non c'è dubbio che l'attenzione sia già proiettata su quella di domani sera con il Manchester City, che è un autentico dentro o fuori. Se il Napoli vince, la qualificazione non è ancora ottenuta, perché poi bisogna vincere anche Villarreal, ma insomma è un'impresa già più abbordabile. Se pareggia o se perde, insomma, se ne parla la prossima volta. Questa, ripeto, già una proiezione su una settimana che prevede un turno interlocutorio per l'Inter, che rischia veramente poco in Turchia, e in ogni caso con un pareggio si qualifica aritmeticamente. Su questo spareggio invece vero e proprio tra Napoli e Manchester City domani sera, e la sera dopo su Milan-Barcellona a San Siro, che è decisiva soltanto per il primato nel girone, non certo per la qualificazione che è già ampiamente ottenuta da entrambe, ma insomma arrivare primo o secondo nel girone un minimo di differenza la fa. Sarà Stark, il tedesco Stark, l'arbitro che stamane l'UEFA ha designato per Milan-Barcellona. Qualche numero di giornata in attesa dei vostri interventi. Si diceva della Juventus che ha ripreso la testa della classifica con una partita in meno, quindi ancora più significativo. È difficile dire se è facile dire che la Juventus sta facendo un grande campionato rispetto a ieri. È difficile stabilire quanto ci sia di demeriti del Palermo in questo risultato, perché il Palermo ha giocato sinora 6 partite fuori casa e ha questo brillante score: 0 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Non solo, ma 0 gol fatti e 9 subiti. Pensate che nei campionati europei che contano, il Palermo è l'unica squadra d'Europa a non aver ancora segnato nemmeno un gol in trasferta. Poi Franco Piantanida si è divertito a cercare nei campionati europei minori se ci sono altre squadre che ancora non hanno segnato fuori casa, e ha trovato in Bosnia il Kosara Gradiska, a Cipro l'Hermis Aradipou e in Grecia il Doxa Dramas. Quindi non stiamo parlando proprio di Real Madrid o dintorni. Di sicuro rimane il fatto che la Juventus non chiudeva in battuta le prime 10 gare in campionato dal 2003-2004. Allora perse l'undicesima in casa 3-1 dall'Inter. E questi 22 punti che ha totalizzato questi 22 punti totalizzati sono 4 in più rispetto a un anno fa, e sono comunque il miglior bottino in Serie A per la Juventus dopo il 2006. Altro primato già battuto è quello in Marchisio, che aveva un record stagionale di gol di 4 realizzati lo scorso anno, è già arrivato a quota 5, e tra l'altro i suoi gol sono sempre particolarmente belli. Quello di ieri facile, bello per l'orchestrazione, insomma, no? per l'assist di uno, la finta dell'altro e poi il suo inserimento puntuale e tempestivo come sempre. Altri numeri più tardi, adesso per restare alla Juventus, un primo bilancio di Conte. Come scadenza, la fine del girone d'andata, quando avremo incontrato tutte e 20 le squadre, e anzi tutte 19, perché noi siamo la 20ª, allora lì tireremo le somme e vedremo che tipo di situazione si prospetta per noi. È inevitabile che noi lavoriamo per ottenere sempre il massimo, non potrebbe essere altrimenti, però sappiamo anche le difficoltà che possiamo incontrare. Ripeto, poi è inutile che, se no mi tocca fare la tiritera che me la sentite da 10 partite a questa parte, quindi finisce il girone d'andata, vediamo noi dopo esserci confrontati con tutti dove siamo e chi vogliamo diventare. Interessante questo messaggio che arriva da Merano. Klaus scrive, da Merano per l'appunto: questa Juventus mi ricorda il Borussia Dortmund della passata stagione, con tanta grinta, tanta corsa e qualche qualità. Oltretutto il Borussia di allora non giocava le coppe e poi il campionato lo ha vinto. È un buon parallelo che ci sta da tutti i punti di vista. Poi Marione Scaria da Milano sembra che avesse già letto questo messaggio, che risponde: questo non è l'anno buono per la Juve, è l'unico anno dove la Juve può vincere lo scudetto, perché a quei ritmi è impensabile che possa ripetersi con anche le coppe di mezzo. Vabbè, questo poi è un problema che eventualmente la Juventus affronterà una volta che il campionato l'avesse vinto e che fosse quindi rientrata in Champions, diciamo dalla porta principale, perché poi, come sapete, ci sono altri due piazzamenti utili. Molta attenzione, molto sdegno anche, ha suscitato l'annullamento del gol di Osvaldo. Ci sono numerosi messaggi dedicati a questo. Per esempio Damiano dice: certo che un gol così si segna una volta nella vita e te lo annullano per un fuorigioco inesistente. Oppure Diego, che scrive: vedere un gol come quello annullato mi è sembrato un affronto, mi sono immedesimato in lui, non c'è un ragazzo che giocando a calcio non sogni di segnare un gol simile. Sì, è vero, è molto vero, il calcio è non pieno, non esageriamo per fortuna, però nella storia del calcio ci sono dei gol, dei gioielli come quello di Osvaldo di ieri sera che chissà perché vengono annullati. La stessa ingiustizia toccò a Rummenig, per esempio, in una partita di Coppa a San Siro, che era un Inter Glasgow Rangers, credo. Segnò un gol, non dico gemello, ma quasi, una rovesciata, una mezza rovesciata, prendendo la palla a un'altezza impossibile col piede. Segnò un gol altrettanto bello, di quello di Osvaldo di ieri sera, e anche quello fu annullato. Sicché quando Diego scrive, lo stesso ascoltatore di prima, vederlo annullato per un errore che con un mezzo elettronico si poteva correggere, lo considero ingiusto. È vero, è oggettivamente vero. Tenga conto che grazie a quell'errore il gol di Osvaldo resterà nella storia come quello di Rummenig, proprio perché è stato annullato e perché è stata una grossa ingiustizia che si ricorderà nel tempo. Se no, con tutto il calcio che vediamo e tutti i gol che vengono segnati, tra 3 mesi non se ne ricorderebbe più nessuno, e sarebbe un peccato. So che è una risposta un po' paradossale, ma insomma, sorry, ma mi è venuta così. Qualche altra voce dopo quella di Conte? Se la Juventus ha rilanciato, ieri c'è una squadra che, per come ha giocato male, sembrerebbe essersi chiamata fuori dalla lotta per il titolo, ed è l'Udinese, e questa è proprio la chiave di lettura che ha dato Guidolin. Vi dicevo di questa analisi severa di Guidolin dopo la sconfitta di Parma, sentiamola. Ma noi non possiamo, noi siamo un'altra realtà, siamo una cosa diversa rispetto allo scorso anno, ve lo dico dall'inizio di stagione. Non si può venire qui e dopo 15 giorni che non giochiamo, c'è in ballo il primo posto, e prendere un gol così, non si può. Vuol dire che abbiamo dei limiti sui quali dobbiamo cercare di lavorare per cercare di migliorarci e mantenere, volare sempre molto bassi, perché questo campionato, lo ripeto per l'ennesima volta, è veramente molto insidioso per tutte. Noi dobbiamo, che ovviamente guardiamo in casa nostra, dobbiamo stare molto attenti. Se pensi un pochino più in là di quella che è la tua dimensione, prendi delle grandi legnate, usciamo sconfitti e che almeno ci serva da lezione. Non segna fuori casa da 2 mesi l'Udinese di Guidolin, dal 21 settembre, da quando Di Natale segnò in casa del Milan, tra l'altro un gol abbastanza regalato dalla difesa avversaria, ed è la seconda sconfitta consecutiva in trasferta per 2-0. A proposito di trasferte, vi dicevo di questo bilancio abbastanza ghiacciante del Palermo nelle trasferte di quest'anno, e allora Roberto da Belluno scrive: Zamparini potrebbe esonerare Mangia per le partite fuori casa e riassumerlo per quello in casa. Scherzo, ma fino a un certo punto. No, lo so che lei scherza, Roberto, ma Zamparini, se legge il suo messaggio o se per caso ne ha ascoltato l'amplificazione, è capacissimo di pensarci. Annullarono in forma oggi voi ascoltatori, vi trovo da questi messaggi che ricevo. Annullarono anche un gol a Platini nella finale dell'Intercontinentale, un gioiello rubato all'Accademia del Calcio, scrive Mirko, la stessa cosa scrive Omar da Bologna, e subito sopra mi pare che ci fosse un altro messaggio che adesso il display provo ad andare a cercarlo, eccolo qua, Federico D'Alessandria scrive: meglio per Osvaldo che gli abbiano annullato quel gol, quello in assoluto più visto e rivisto dei tanti di Platini è quello annullato nella finale di Tokyo, e quindi insomma si mette su questa linea paradossale che ho imboccato prima, ripeto, paradossale per carità, ma è vero che se si pensa al gol più celebre della storia di Platini, e sì che ne ha segnati, e ne ha segnati di memorabile, è quello di Tokyo. Se si pensa al più bel gol della storia personale di Rummenigge, si pensa a quello annullato contro il Glasgow Rangers in Coppa, e quando, augurando a Osvaldo di fare un gol come quello a partita, come quello di ieri sera, probabilmente anche per Osvaldo si ricorderà di lui quel gol che gli annullarono una sera contro il Lecce. Giancarlo ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, dottor Garanzini. Mi perdoni, soltanto un intervento sul discorso del gol annullato da Osvaldo. Per carità di Dio, è d'accordissimo, è molto paradossale tutto il commento che abbiamo ascoltato fino adesso, però voglio soltanto aggiungere una cosa: e se quel gol annullato poi avesse procurato, diciamo, l'impossibilità di acquisire i 3 punti, perché buon per la Roma che ha vinto lo stesso 2-1, sì, ma se ciò non fosse accaduto, che commenti avremmo fatto? Io le dico il mio, avrei detto che quell'errore del guardalinea Marchiano sarebbe comunque stato meno grave degli errori di Bojan sotto porta, su questo non ho alcun dubbio, nel senso che lo penso da ieri sera quando l'ho visto. Brutto l'errore del guardalinea, perché la posizione di Osvaldo è abbastanza statica, anzi è statica, lui si prepara, non sta scattando, si prepara questo gesto fantastico in acrobazia e quindi è fermo, e quindi per l'assistente è un errore abbastanza grave. Ma quelli che ha commesso Bojan sotto porta, uno poi da 0 metri, insomma, mi sono sembrati anche più gravi. Quindi se dobbiamo pensare, lo ripeto per la miliardesima, non milionesima volta, se dobbiamo pensare alla buona fede, se dobbiamo partire dalla buona fede di Bojan, dobbiamo partire anche da quella dell'assistente, se no impieghiamo diversamente, in modo migliore credo, il nostro tempo libero. E in ogni caso, se parliamo di errori che incidono sul risultato, allora gli errori che incidono sul risultato li abbiamo visti la sera prima, perché ha inciso indubbiamente sul risultato di Napoli-Lazio l'errore commesso sull'offside, che non era offside, di Maggio, e poi l'assist in mezzo per Cavani, ma ormai a gioco fermo, e altrettanto sul gol di Seedorf a Firenze, direi nel caso del Milan aggravato da due rigori non visti dall'arbitro, che mi sembra fosse Mazzolini di Bergamo, sicché se stavolta hanno da lamentarsi i milanisti, beh, mi pare che non ci sia davvero nulla da dire, perché 3 episodi su 3 giudicati in maniera contraria sono tanti in una stessa partita, anche perché tutti e tre abbastanza netti, perlomeno i 2 calci di rigore. Luigi da Pavia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Dunque, ho sentito l'intervista di Conti che avete mandato, e lui ha detto che il primo bilancio si fa alla fine dell'andata, insomma, perché si incontrano tutte le 20 squadre, poi si è corretto 19. Dicendo 19, perché e fin qui l'aveva già sentito, poi? Ecco, praticamente pensavo, ma questa gaffa probabilmente non è voluta, però ecco, l'altra squadra da incontrare è proprio la Juve stessa, che deve crederci, perché insomma i risultati gli stanno dando ragione e deve solo crederci fino in fondo, quindi potrebbe essere la Juve stessa l'ultima squadra da vincere. Sì, ho capito, è giorno dei paradossi questo evidentemente, ma a me pare che fino adesso la Juve ci creda, e come, ho trovato abbastanza felice quel parallelo col Borussia Dortmund di un anno fa, che in effetti aveva questa stessa feroce agonistica. Il problema è vedere se si regge un campionato con questo eretismo podistico, come l'avrebbe forse ribattezzato Brera, ma io penso di sì, non avendo impegni supplementari, non giocando in Coppa il mercoledì e potendo quindi dedicare tutte le energie al lavoro preparatorio del campionato e poi alla partita del sabato o della domenica, io credo che sia possibile. Perlomeno per ora non ci sono segnali negativi o inquietanti in tal senso. Molto significheranno in prospettiva le 2 partite di sabato e di martedì a Roma con la Lazio e a Napoli. Gennaro da Napoli, buongiorno. Buonasera a lei Garanzini. Complimenti, dica. Fantastico, straordinario. Da lei vorrei avere solo un'idea per quanto riguarda il Napoli. Mi dà la sensazione di essere l'eterna incompiuta. È come se le mancasse sempre qualcosa, un'acqua, le frecce da tirare, siamo lì vicini a portare a termine il risultato e poi invece una volta per un manca qualcheduno, un'altra volta perché i ragazzi hanno la testa altrove, quant'altro, oppure perché Mazzarri stesso in prima persona può interpretare la partita in maniera sbagliata, siamo sempre lì e il traguardo non lo raggiungiamo mai. Volevo un suo commento, grazie, buona serata. Il mio commento è che se in Eterna e in Compiuta c'è un errore, nel senso che in Compiuta va bene, ha spiegato lei perché, Eterna è sbagliato, nel senso che Eterna è se il Napoli fosse a quel livello da 6, 7, 10 anni, ogni anno avesse un problema di completezza, di maturità, di salto di qualità che non riesce a fare o chissà che. Il Napoli è lì da un anno e mezzo, mi pare, no? A questo livello, mettiamoci pure anche la stagione precedente, ma insomma più o meno, quindi Eterna no, Incompiuta sì ancora, ma Incompiuta come sono incompiute tante. Io insisto, se domani sera io non gli auguro di uscire, sì, è ben chiaro, ma se per caso domani sera il Napoli dovesse uscire dalla Coppa contro una grande squadra contro il City, secondo me, asciugate le lacrime e leccate le ferite, il Napoli si concentra solo sul campionato e ritorna in Leeds. Così io sinceramente ho qualche dubbio, ma queste non sono che opinioni. Bruno, chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno, congratulazioni. Volevo rimanere nei paradossi dicendo che mi sembra il campionato dei Ciapanò, cioè anche questi pareggi continui, sembra che nessuno voglia tenere in mano il cerino. E una considerazione sulla Juve, una squadra che pareggia contro due tra virgolette piccole in casa, non credo sia matura per un campionato di Serie A. 4 punti regalati così, considerando che in passato si vinceva lo scudetto su un punto. Beh, però nel frattempo, rispetto a quei due pareggi, insomma, la Juve è cresciuta. Adesso mi sembra che abbia un'altra convinzione, un'altra completezza, un'altra voglia di spostare l'asse della partita sempre nella metà campo avversaria, perché quando l'asse è nella metà campo propria non c'è da stare tanto tanto tranquilli, parlando di Juventus. Però insomma, il fatto di riuscire a mascherare una debolezza trasformandola in una risorsa o in una forza è una buona idea, direi, no? E mi sembra che la Juventus la stia applicando. Adesso bisogna vedere se questo trucco, no? Se questa mossa, ripeto, che è meglio come termine, funziona anche con le grandi squadre e soprattutto funziona fuori casa. Se il Milan viene derubato di 2 punti come è successo sabato, mi pare ovvio che può essere l'anno della Juve, scrive Stefano. Lei ovviamente si guarda bene al parlare di errori arbitrali quando vengono ai danni del Milan. Le manderò la registrazione, Stefano, di pochi minuti fa, a meno che invece questo comunicato non debba andare in onda a ripetizione ogni 5 minuti. Il Milan è stato danneggiato. Al Milan hanno negato 2 rigori che mi sembrano più gravi come errori di quello commesso invece dall'assistente sul gol di Seedorf, perché lì stiamo parlando davvero di una frazione di secondo come quello del Napoli e sono errori che si capiscono di più. Due rigoni negati come quelli che ho visto, soprattutto il secondo nell'area fiorentina di sabato, effettivamente sono un po' più difficilini da digerire. Oggi per me è un giorno abbastanza allegro, nel senso, no, senza esagerare, ma insomma, riguarda Denis, perché insomma, chi segue questo programma sa che è un mio vecchio pallino sin dai tempi del Napoli. Il fatto che sia oggi diventato capocannoniere assoluto del campionato, avendo giocato un'altra grande partita fuori casa ieri, che poi l'Atalanta non è riuscita a vincere, ma un po' per demeriti suoi, ma soprattutto per merito del Siena, che non ha mollato fino alla fine, non cambia il fatto che Denis sia fin qui la punta centrale più forte del campionato in assoluto, anche perché poi ci sono attaccanti ben più celebrati che sono campioni autentici, assoluti e riconosciuti di dimensione mondiale come Ibrahimovic, che però magari passano ogni tanto 90 minuti a piantare le banderillas, no? Invece di pensare a finire il toro. Ecco, Denis è esattamente il contrario. Denis solo per quello è programmato e solo quello riesce, può pensare di poter fare. Sentiamolo. Ma guarda, io sono arrivato dall'Argentina con l'abitudine di giocare sempre. Poi ho iniziato a Napoli, poi il calcio è questo. Il primo semestre è stato un po' faticoso, nel senso di di trovarmi e capire il calcio italiano, e poi vabbè, il calcio così mi è capitato di non giocare tanto. Non lo so che tipo di modello, però sempre ho guardato Crespo, Batistuta, e vedeva sempre i movimenti che facevano. E cercavo di imitarlo, soprattutto in questo periodo che sono stato in Italia, ho imparato molto a muovermi dentro il campo. E ho imparato da tanti allenatori, di quello che ho avuto tanto in Napoli come in Udinese. Bravo, mi sembra anche un saggio questo Dennis, che con i 9 gol, la quota 9 raggiunta ieri, ha già superato il suo record di 8, che risaliva al 2008-2009 con la maglia del Napoli, e che quando arriverà a 10 gol, cioè alla prossima ciliegia, avrà un premio extra di 70.000 euro dall'Atalanta. 70.000 euro sono ovviamente tantissimi se ragioniamo in termini di crisi economica, sono un premio abbastanza poco significativo, invece se parliamo delle cifre astronomiche deliranti che girano nel calcio, e proprio facendo raffronti tipo quello che ho appena concluso prima. Carlo ha chiamato dalla provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto grazie per la compagnia che mi fa sempre nel tragitto tra casa e lavoro. Grazie. Volevo il suo parere sugli infortuni dell'Inter. Come mai secondo lei riescono a farsi male anche durante il riscaldamento, durante gli allenamenti? Cioè, io non riesco mai a seguire una partita dove ci siano, bisogna sempre stare sulle spine, perché 2 minuti prima si fa male uno, 5 minuti prima un altro, negli allenamenti gli infortuni muscolari. Cioè, come mai? Mi pare che in linea di massima succedano per la maggior parte all'Inter queste cose qua. È il calcio che è troppo violento o dal punto di vista, sono gli interisti che sono logori, eh? Questa potrebbe essere forse una chiave di lettura, no? Poi non si può mai fare di ogni erba un fascio, però insomma, più un giocatore è o avanti con gli anni, oppure come dire, è stato in tempi più o meno recenti sfruttato, nel senso migliore del termine, in maniera intensiva, e più corre questo genere di rischi. Io non aggiungerei un altro fattore, e questo lo prendo a prestito dal mio unico referente in materia, che cito con le maiuscole, cioè il dottor Piero Volpi, il quale più di una volta a questi microfoni ha sostenuto che un fattore di rischio è certamente il cambio frequente di genere di preparazione, cioè non solo di preparatore come persona, ma di genere ovviamente di preparazione, perché poi ciascuno ha i propri metodi. Ecco, io credo che se è un allenatore in 2 anni o quanti sono stati all'Inter ad alternarsi, da questo punto di vista non abbiano particolarmente giovato. Milano, Alessandro, buongiorno. Salve Garanzini, volevo fare due interventi. Uno riguardo quello che parlava prima lei del Napoli, che in caso che esca fuori dalla Champions League, però sicuramente potrebbe puntare all'Europa League, perché noi italiani ci dimentichiamo dell'Europa League, ma comunque no, potrebbe, facciamoli per scaramanzia, facciamoli da dopodomani questi discorsi. No, le dico solo però questo, poi lei continua, che l'Europa League è tutto un altro genere di manifestazione, cioè ti consente avversari più morbidi, ti consente tutto un altro impatto, e ti consente magari anche, ti può arricchire, perché è una vetrina, è un modo di sperimentare, un palcoscenico per sperimentare delle alternative, e quelle alternative, un conto è se devono giocare all'Allianz Arena, un conto invece è se giocano a Bratislava o a Auxerre, vediamo dove, insomma. Appunto per quello, infatti secondo me anche le italiane dovrebbero puntare a vincerle all'Europa League, certo, perché hanno la forza per me. Un'altra cosa, beh, sono tifoso della Juve, ho visto che si sta comportando molto bene, vedo una bella grinta, però secondo me per fare salto di qualità serve un fuoriclasse, e poi spero che adesso col mercato di gennaio vanno via un po' di ali che sono lì in troppe, e magari si prenda un altro centrocampista centrale, perché se si fa male Marchisi o Vidal non abbiamo lì nessuno in sostituzione, è un difensore centrale, ecco. Va bene, grazie Alessandro. Andiamo a Prato da Sam, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, grazie per per la telefonata. A proposito degli arbitri, ma potrebbe essere una, non so, una proposta provocatoria, nel senso di istituire, non so, gettone a punti. Se l'arbitro sbaglia e viene decultato i punti, così che quando finisce i punti non arbitra più per la stagione, non lo so. Ma potrebbe essere questa? Un'idea? Sam, sì, cioè le idee possibili sono tante, non mi sembra particolarmente felice, cioè esiste già un sistema di, come dire, di punizione, ed è la sospensione che l'organo tecnico dell'AIA infligge a un arbitro o un assistente che si sia reso colpevole di errori particolarmente gravi, cioè l'arbitro salta una, due, tre partite, sta, come dire, a meditare sui propri sbagli e nella speranza che questa sosta gli serva a ritrovare la forma, no? Spesso accade, altre volte no, ma insomma esistono già queste cose. Io poi penso che la patente a punti la lasciamo magari ad altri settori, no? Andrea ha chiamato da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie mille per lo spazio. Volevo fare una considerazione sulla Juventus. Ieri sono andato a vedere allo stadio, come tutte le domeniche. Ma a parte, vabbè, che mi è piaciuto molto, ma effettivamente io adesso sono preoccupato, perché Conte ha impostato il suo gioco inizialmente sul 4-2-4, si diceva, quindi siamo pieni zeppi di ali. Mentre invece adesso è proprio impostato sul nostro centrocampo, perché secondo me è la differenza, oltre poi a sviluppare sulle ali il gioco per poi creare occasioni e gol. Ma il nostro fulcro è interessante, è il centrocampo, cioè Pirlo, Marchisio, Vidal. Secondo me stanno facendo la differenza in maniera eclatante fino ad oggi. Ed è su quelli che noi dobbiamo stare attenti. Se per caso si fa male uno di questi tre, soprattutto Pirlo, secondo me, siamo fregati. Io, questa è la mia preoccupazione. Quindi niente, volevo sapere se anche lei condivideva questa cosa e insomma. Sì, io sono un po' meno preoccupato, quindi condivido, diciamo, con meno partecipazione. Penso che dei tre l'uomo di cui paradossalmente la Juventus forse potrebbe ogni tanto fare a meno, più risentendone meno, è proprio Pirlo. Questa è una sensazione mia. Ho l'impressione che questa squadra, che sta diventando, anzi è già diventata una squadra abbastanza di guerrieri, di combattenti, di ogni tanto abbia in Pirlo, no, la maggior parte delle volte abbia in Pirlo il valore aggiunto, e ogni tanto invece abbia in Pirlo un catalizzatore eccessivo. Però sono sensazioni che andrebbero, appunto, come fa lei, verificate sul campo, per esempio, cosa che a me non accade. Sentiamo un'altra voce, io direi di sì, in attesa di qualche altro vostro intervento, peraltro già ampiamente prenotato, e la voce è quella di un altro giocatore che si sta segnalando in maniera particolare, che ieri ha, con le sue prodezze, ha letteralmente firmato la vittoria di Catania del Chievo. Parlo di Sorrentino, portiere che sogna addirittura la nazionale. L'obiettivo e il sogno di tutti quanti è quello di giocare la nazionale. Comunque questo è il mio quarto anno al Chievo ad alti livelli, e quindi, visto che tutti quanti si sponsorizzano e tutti quanti dicono che puntano alla nazionale, io non l'ho mai detto, ho sempre detto che era un sogno. Allora da oggi in poi inizio a dirlo anche io, che il mio obiettivo è quello di andare in nazionale, di far parte del gruppo dell'Europa. Non sono mai stato convocato in nazionale, ho 32 anni, non mi sento veramente vecchio, e quindi voglio giocarmi le mie carte. Sorrentino! Beh, simpatico Sorrentino, meno la voce che fa irruzione alla fine di Donna Ilaria, però Sorrentino è piaciuto molto per questo garbo con cui si propone, legittimamente. Matteo, provincia di Lodi, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo fare un passo indietro e tornare alla sua cultura del paradosso sul gol di Osvaldo, e dire che in effetti nell'immaginario popolare, al di là del gol di Rummenigge, che lei mi ha fatto ricordare che ero ragazzino e via dicendo, sono i gol più clamorosamente annullati, forse quelli non visti da tutti, che rimangono nella storia. Io sono sampdoriano, mi ricordo un gol in rovesciata di Vialli a Empoli nell'87 che è rimasto nel mito perché c'era lo sciopero delle TV quel giorno e lo vedemmo solo noi che c'eravamo, oppure i lettori del Guerino, che ancora adesso conservo la foto del Guerino con Vialli coi piedi al cielo e la testa per terra. Voglio dire, ci sono stati gol come la mezza rovesciata di Mancini a Napoli e via dicendo, sì, che importantissimi, che sono stati in parte dimenticati. La rovesciata di Vialli al Castellani se la ricordano tutti, quindi Osvaldo forse paradossalmente è stato fortunato che gli sia stato annullato il gol. A Osvaldo gli è andata bene, finirà così, dai, la partita l'hanno vinta, Bojan se ne è mangiati tre da solo davanti alla porta, la Roma alcuni altri. Hanno sbagliato gli attaccati della Roma, purtroppo ha sbagliato gravemente anche questo assistente, che non lapiderei per questo comunque. E arriviamo alla rubrica di Nicola Filippone, vediamo che cosa ha scovato per lunedì 21 novembre con un'avvertenza. Causa un piccolo problema tecnico, oggi non siamo in grado di mandare in onda il file originale, quindi vi accontenterete dopo la sigletta della mia voce. No, nemmeno quella, non c'è nemmeno la sigletta, oggi non è una buona giornata per Nicolino Filippone. Dunque, 21 novembre 1948, il 21enne Enzo Bearzot debutta in Serie A con la maglia dell'Inter, che a San Siro sfida il Livorno. I nerazzurri si impongono per 3-1 con gol di Amadei, Armano e Nirs, e il futuro CT della nazionale è talmente emozionato da rischiare di scendere in campo con la maglia numero 5 alla rovescia, cioè sul petto anziché sulla schiena. Trovare spazio nell'Inter per Bearzot non sarà facile, e infatti in 3 stagioni metterà insieme soltanto 19 presenze, prima di essere trasferito al Catania, dove porterà la squadra etnea in Serie A, e l'esperienza accumulata gli consentirà successivamente di diventare un punto di riferimento nel Torino, passaggio più importante della sua carriera di calciatore. Grazie a Nicola Filippone per questo ricordo. C'è invece una piccolissima scheda registrata che adesso manderei in onda volentieri per ricordare, è un frammento della Domenica Sportiva del 1970, quando il Cagliari vinse il campionato, ed è un brevissimo ricordo del terzino destro del Cagliari, campione d'Italia di allora, che è scomparso ieri, Martiradonna. Mario Martiradonna, terzino destro, ha quasi 32 anni e milita nel Cagliari dalla stagione 62-63. È un giocatore molto combattivo e tenace. Sì, una scheda essenziale, ma insomma, come usava allora, sembra quasi un cinegiornale d'anteguerra, no? Come formula. Martiradonna. Franco ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno Granzini. Dica. Una cortesia, sappiamo che il momento dopo il gol ci sono le esultanze, sappiamo anche che chi si toglie la maglia viene ammonito, ok, tutto d'accordo, ma io volevo una sua opinione su questi balletti che vengono fatti, magari anche in risultati che comunque sono abbastanza impietosi nei confronti dell'avversario. Non pensa che anche questi dovrebbero essere comunque oggetto di valutazioni e cercare di fare come facevano una volta i giocatori, che giustamente festeggiavano, per l'amor del cielo, ci mancherebbe altro, però in una maniera un po' più corretta anche nei confronti dell'avversario? Grazie, buon pomeriggio. Ma certo che sì, Franco, lo penso da tanti anni, non trovo insopportabili queste esultanze. Appunto, anche per carità, cioè, ciascuno segna il suo gol, è sempre importante per lui, è sempre importante per la squadra, un significato certamente ce l'ha, ma insomma, rispetto alla maggioranza che sostiene che la gioia non può essere frenata, io come sempre d'altra parte sono in minoranza e sostengo invece che la gioia va celebrata in un'altra maniera. Io insomma, sono rimasto un nostalgico delle strette di mano di un tempo, lì quando Schiaffino o Lidolm o questi veri fuoriclasse si limitavano a stretta di mano oppure ad un sobrio abbraccio con un compagno di squadra o a un sobrio gesto di esultanza. Dato che adesso in Italia la sobrietà mi pare, no, che sia tornata su altri versanti, per fortuna, perché quelli in cui ce n'era davvero bisogno. Chissà che prima o poi non riusciamo a evitare qualche buffonata di troppo. anche sul campo. Marco da Pescara, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io volevo parlare del bellissimo campionato di Serie B in cui il nostro Pescara quest'anno sta dando spettacolo, sempre con lo stadio pieno, e dopo volevo un suo parere, anche perché lei, simpatizzante granata, di cosa pensa di tutto ciò. Grazie e buona giornata. Dunque, io simpatizzante granata fino agli anni 80, direi, scarsi tra l'altro, quindi insomma, diciamo che è un'esperienza sentimentale ormai molto, ma molto, molto datata. Mi sembra un campionato di Serie B anomalo, diverso dal solito. Ne parlavo la settimana scorsa, un paio di settimane fa, con un grande intenditore di caletteria come Fascetti. Nel senso che il campionato di B quest'anno sembra un po' quello di A. Parlo di quantità di punti raggranellati, di media, di squadre protagoniste da vertice, mentre invece quello di Serie A è molto più livellato del consueto e quindi sembra in un certo senso una squadra, un campionato di Serie B. Sembra che siano incrociati, no? In altre parole. Di sicuro non so che qualità in assoluto ci sia in questa B. Un quarto d'ora ogni tanto di rete non mi sembrano particolarmente esaltanti, per la verità. Ma forse il Pescara fa eccezione, perché non c'è dubbio che anche in questa stagione, cioè, che si sta lentamente avviando verso il tramonto, no? Perché Zeman a 64 anni, che non sono proprio bruscolini, mi sembra che la sua mano si veda come, che sia riuscito a trovare un'altra piazza dove ricreare lo spirito migliore delle sue avventure. Luigi ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Volevo fare un intervento sulla Juventus di Conte e sulla rosa in particolare che ha a disposizione. Ora, io vedo un Conte, vedo una squadra che gioca comunque un bel calcio, un buon calcio, è prima in classifica, è una partita in meno e sta esprimendo tutti i valori di Conte. Ma io dico, lei non crede che avrebbe bisogno di fare anche un pochino di turnover, pur non essendo impegnata in altri lidi, cioè per non depauperare il valore dei calciatori come Krasic, come Lia, che non stanno trovando spazio, non credo perché non abbiano le caratteristiche per giocare in questa squadra, ma proprio per una scelta di Conte. Krasic mi sembra una bocciatura definitiva la sua, no? Perché mi sembra che Krasic sia una bocciatura assoluta. Elia sinceramente non saprei, ma se parliamo di alternative, allora è un altro discorso. Se parliamo di turnover, direi che non ci siamo, nel senso che turnover deve fare la Juve, che l'ultima partita la giocherà 3 settimane fa, anzi semmai deve cercare di tenere in condizione quelli su cui ha puntato, no? E cercare di rimetterli, come ha fatto ieri, cercare di rimetterli subito, il più presto possibile, comunque al massimo dei giri. Non mi sembra aver visto sul display ancora un ascoltatore che invece probabilmente è sparito, ma non è grave, perché in ogni caso a me piace sempre ascoltare l'opinione. C'era un novarese, mi pare, che adesso vediamo di ripescare da una linea caduta. Certo, il Novara non sa più vincere, pesco dalle statistiche di Franco Piantanida, perché l'unica vittoria è del 20 settembre, quel 3-1 sull'Inter. Non solo, ma è l'unica squadra ad aver sempre subito un gol in ogni partita, il Novara. Da Novara ha chiamato Marco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, noi affrontiamo il tema salvezza, ma insomma non è che non ce l'aspettassimo, per cui mi pare di capire che ci sono quattro squadre oramai che si stanno un po' staccando. Fra sì. Queste quattro, il Cesena, paradossalmente, che fino a ieri era messo malissimo, poi con questa vittoria evidentemente sarà corroborante, è quella che sul piano della rosa è, secondo me, ha aspetti sicuramente più confortanti. Sì. Completamente all'opposto di quello che siamo noi, intendo il Novara, che sul piano, ecco, dei nomi rispetto a tutte le altre tre. La mia domanda era, noi continuiamo a teorizzare la sfortuna, che è una cosa che nel calcio, insomma, non teorizzare proprio. Le rispondo la prossima volta, Marco. La premessa è stata troppo lunga, le chiedo scusa, ma siamo in strachiusura. Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanini in redazione. Grazie a tutti, buon pomeriggio.